gira la testa e mi hai rubato un bacio e dimmi dove vai di fè. Da se mi sfiori piano sto a mille metri da te. Ranno non sei sincero, dimmi se ci tieni un po' a me volerò sopra una stella, lacrime salate, forse un pensiero era lei. Da seguo il tuo respiro sotto un tramonto di perla. No che non ti aspetto, se ci credi cercami te. E forse siamo solo frasi a metà. Le luci di San Siro, un bacio alla fermata del tram. Le corse in motorino, gli anni dell'università. Con te che arrivi in ritardo e ti occhio abbasso lo sguardo e mi spengo. Oh, oh, oh, questa notte piangerò. Lo faccio tutte le volte che mi porti i tuoi guai. Ma se mi faccio distante non mi prenderai. Oh, oh, oh, suoni come rock and roll. L'umore già te, raccomprami un gelato e butta quella sigaretta. Prendimi per mano che anche se mi fai la guerra sembri più leggero, è bello se ti fidi di me, di me. E forse siamo solo frasi a metà. Le luci di San Siro, un bacio alla fermata del tram. Le corse in motorino, gli anni dell'università. Con te che arrivi in ritardo e tocca abbasso lo sguardo e mi spengo. Forse mi dimenticherai come fosse un sospiro, qualche viaggio che non farai. Le chiavi della moto, i tuoi vestiti ancora tra i miei. Però ci basta uno sguardo, sì, uno sguardo. Oh, oh, oh, questa notte piangerò. Lo faccio tutte le volte che mi porti i tuoi guai. Ma se mi faccio distante non mi prenderai. Oh, oh, oh, suoni come rock and roll. Gente, forse mi ci perderò. Sulle nuvole in fondo ad un cocktail, alle feste con gli amici tuoi. Perché se ci capiamo con niente, forse ci ricascherò. Questa notte piangerò. Lo faccio tutte le volte che mi porti i tuoi guai. Ma se mi faccio distante non mi prenderai.